Domenica 23 luglio dell'anno santo 2000, dagli studi di Radio Onda Rossa in via dei Volsci a Roma, va in onda la trasmissione Prozac che per l'occasione ospita alcuni dei poeti disgustisti che leggeranno le proprie poesie. Sono Domenico, Stefano Ricci, Andrea, Cristi e Flavio. Sì, al mio cospetto sono quattro poeti. Che tra poco cominceranno a recitare. Solo per te la mia canzone vola, mamma. Te sparerebbe in corpo di pistola. Tanto non te entra in testa manco quello. C'ha già un troppo piomo nel cervello. Quando sono nato il primo schiaffo me l'hai dato tu. Me l'hai dato così forte che sono diventato blu. Ed è stato solo il primo di una bella lunga serie. Che mi schiacciarono con molto nella serie. Sì che nievo per rustare. Se non ruttavo mi massacrai. Con i pannolini solo una volta al mese per ricambiare. Se giocavo dicevi che era un per di giorno. Se dormivo mi chiedevi dentro al forno. Ancora oggi, se rimango troppo a letto, tu mi infili un ombrello dentro il vento. Se pranzo mi mannava il passato le verdure, stavi puro a cena sotto forma di chistere. Se facevo la popò, se sbaglio fuori dal vasetto, me la facevi forza rimanere dentro al letto. Mi hai fatto crescere a forza le minacce bastonate, che non sono tutte volte del corpo deformate. La colonna vertebrale poi sta proprio una bomba. Pare il trattore lo slavo fatto da Alberto Tomba. Quando un giorno mi hai beccato a farmi una pugnetta, per tutta la nottata mi incominciavo l'accetta. E adesso che sto uomo, nel senso sessuale, minacci di castrarmi con corpo di pugnale. Eppure lo sapevi, che non eri tu il mio tipo. Mi hai fatto venire tutta l'orchestra del tipo. Mamma, io lo so bene. Ma poi sai, non sembra una cosa. Per chi dovrebbe stare tranquillo. Cioè il cinema in generale e in particolare quella grossa forma di arte che è il film di serie B. La poesia che vado a leggere è Godzilla contro i tre moschettieri. L'assalto del pone omicide, l'attacco dei granchi giganti, l'attacco della donna alta 50 piedi, Babbo Natale conquista i marziani, le barbare ninfomani, la bestia della notte gialla, i pagliacci assassini dallo spazio profondo, le creature dal cervello atomico, le diavolesse su ruote, la donna pantera del Congo, la donna vespa, le donne del pianeta preistorico, le donne gatto della luna, le donne gatto selvaggio, le donne selvagge di Bongo, le donne vichinghe e il serpente marino, il dottore pazzo dell'isola di sangue, il fantasma dal vichinghe invisibile, la figlia dell'infernale pipistrello, i freaks tutti a sangue, i trepidi, le giovani cannibali in topless, gli Hells Angels sanguinari, le incredibili strane creature che smisero di vivere e divennero mezzi zombie, l'infernale ragazza di Marte, l'invasione dei grani giganti, Jesse James contro la figlia di Frankenstein, le lesbiche vampire, licantropi su ruote, il licantropo del dormitorio femminile, la lupa di Londra, la maledizione della creatura della palude, i maniaci inceneritori nell'inferno dei dinosauri, il mangiatore di donne, i mangiatori di feccia, l'amantide omicida, i mostri rovinano il pigiama party, il mostro da un milione di occhi, il mostro dalla galassia 27, i nani venuti dallo spazio invadono Porto Rico, la notte della donna cobra, le orge dei morti, l'orrido demone solare, l'orrore dei mostri di sangue, la polizia canadese contro gli invasori atomici, le polastrelle in motorino nella città degli zombie, i pomodori assassini, il rabbioso pianeta rosso, le ragazzacce da Marte, i sadici di Satana, le sanguisughe giganti, le schiave da oltre l'infinito, il selvaggio mondo della donna pipistrello, lo strangolatore di Hollywood e la squartatrice dei vicoli, lo strano mondo del pianeta X, i surfisti nazisti, il topo ragno omicida, le troie di Hollywood con la sega elettrica, le troie vampire, l'uomo dagli occhi a raggi X, il vampiro di velluto, la vergine con la testa di fuoco, le vergini di fuoco dallo spazio profondo, gli zombie della stratosfera. Volevo... Vabbè, è stato un tentativo di applauso. Volevo aggiungere una cosa. A questa poesia volevo aggiungere una cosa, che questa poesia esprime proprio un concetto base della poesia disgustista, cioè non inventare niente. Io non ho inventato niente, ho semplicemente riportato dei titoli di film che esistono, e questi film esistono tutti, quindi questa è antipoesia totale per quello che mi riguarda. Adesso può scattare l'applauso. Può scattare l'applauso. Bravo, bravo. Bravo. Mi fate venire da piagne pure a me. Ce n'ho 5 qua de faccia e qua davanti che ve le raccomando. Rifatevi con Johnny Thunders in Cold Blood. Fra poco un'altra poesia. Vado. Questa canzone si intitola Benzina Verde. Provo di poche parole. Mi chiamo Andrea e questo pezzo è mio. Benzina verde, verde come i prati, gli alberi, i boschi, gli innamorati, verde come me. Che ho attraversato il centro di Roma e posto senza fiato. Benzina verde, verde come gli occhi di una bella bionda che poi ci sbrocchi. Verde come me, che mi chiamo Andrea, e sono verde dalla rabbia perché vivo in apnea. Mi chiamo Ami Cristi. Inizierò subito con il rito di introduzione. Disponiamo il nostro cuore, la nostra mente e preghiamo con vero spirito di fede. Nel nome della madre e della figlia e della spirita santa. Amen. La dea della speranza che ci riempie di gioia e pace nella fede per la potenza della spirita santa sia con tutti voi. E con la tua spirita. Signora, tu che ci ami di un amore più forte della morte, abbi pietà di noi. Signora, pietà. Cristi, che hai condiviso per amore la nostra vita e ci hai donato la tua, abbi pietà di noi. Cristi, pietà. La Dea Onnipotente avrà misericordia di voi, perdonerà i vostri peccati e vi condurrà alla vita eterna. Amen. Che l'orgia abbia inizio. Chi è tipo nell'universo? Meglio alzarsi e pensarci al gabinetto. Sarà stato in discoteca? Sarà stato in videoteca? Una cosa però è sicura, meglio vestirsi e darsi alla fuga. Già, la fuga, ma questa è casa mia. Sarebbe meglio fosse lui ad andare via. Senti, scusa, è già mattina. Mi presento, mi chiamo Cristina. Sai, dovresti andare via, c'è il funerale di mia zia. Vabbè, facciamo colazione. Il suo nome è Giovannone, istruttore bodybuilding, tutto muscoli e sopraccigli. È contento e soddisfatto, approfitto e gli prendo il cappotto. Adesso speriamo non si senta obbligato. Lo precedo e gli dico, è stato bello finché è durato. Il numero del cellulare, no, non posso dartelo, è di mio padre. A proposito di parenti, sai, dovresti proprio andare. Ti ricordi il funerale, mia zia, via? Sì, ti vengo a trovare in palestra a Piazza Navona. Sì, ci vediamo, ciao, giornata buona. Della modulazione di frequenza. La trasmissione è Prozac, selezione colta per pezzenti d'avanguardia. Eccomi qua. Allora, mi presento per chi non mi vede, sono Flavio, detto non si sa per quale motivo Hermes. Vorrei iniziare prima di tutto leggendo la maglietta che indosso questo pomeriggio alla radio, e dice testualmente, anche se in inglese: non ho pregiudizi, odio tutti. Bene, dopo questa cosa estremamente disgustosa, mi riallaccio alla simpatica poesia che ha letto prima il nostro amico Tecno Ciccio, con una parodia della poesia stessa, che però ha una caratteristica esattamente opposta, cioè tutti i titoli di film che andrò a leggere sono assolutamente inventati. Tecno Ciccio contro il vituperatore automatico, il mistero delle righe a quadretti, il cercopiteco invisibile contro il bisonte trasparente, Tecno Ciccio contro i tapperulli acrobatici, il mistero del cognato artefatto, il triangolo dai cinque lati di fuoco, Tecno Ciccio contro il pigiama inventato, il mistero dei misteri risolti, la casa delle Bertucce inverosimili, il mistero del mostro stupendo, il telefono, Tecno Ciccio contro il mugnaio imbestialito, il peperone che pizzica contro la cipolla che mozzica, Tecno Ciccio colpisce ancora, ancora colpisce Tecno Ciccio, l'affannosa odissea del sabbatanaio puzzolente, il ritorno dei conigli apparenti, gli orrori del pescivendolo che si credeva morto ma aveva solo mal d'orecchi, le ultime grida del capitano muto, Tecno Ciccio contro il mancino con due mani destre, canta la regina dell'impero muto, la vendetta dei chilometri cortissimi, la minaccia del marasma ordinato e infine Tecno Ciccio contro gli invasori spaziosi. Grazie. Ausi, non sono proprio spontanei per niente se li fanno loro tra di loro. Ma comunque andiamo avanti, fra poco un'altra poesia. Intanto il Rancid con I Wanna Riot. Devi leggere queste due tre notizie. Coppo di diretta, Marta. Ti prego. Testa e columna. La sciabella per fondo la no, non si può. Vai. Un pesto. Corea per l'altra il bene. Ma io un paio di queste le direi veramente. Il bene più duro, il bene più duro. Sono bimbi di essere visti. Che si tromba ecco come probabilmente che la gente c'ha cazzo da fare e quindi tromba le prostitute per fare questo culo, tromba l'altra prostituta davanti così c'è un milano abito là ancora privo dell'ayatollah di questa trasmissione, cioè Mr. Prozac ayatollah. Qui oggi a studio e fra poco sentirete un'altra. Questi intanto sono i Suicide Machine con New Girl. Perché è l'unico palo della luce che c'è. Questo ha sbagliato al palo della luce. Senti che culo, si schianta frontalmente contro un palo della luce. Ce n'è uno ogni 100 metri. E lui ha preso un palo di 20 centimetri. Paga poscia così, boom. Dovevi morire proprio. Ma cosa dobbiamo le mira? Che sparati era meglio. Ha fatto 60 metri del volo e poi ha beccato il palo, ha abbracciato il palo. No, è parlato ci da. Ah, sono nel palo. No, questa è il punto di casa mia. Perché ho capito. Ma tutto devo uscire a porca la fidela. Allora, che ho sentito alla fine lui. Ah, ecco, ho sentito con l'ultima nota di lui e poi ha detto un barbecue. No, ha detto della pelle. Dal grande detto bianco. Perfetto. Il nostro pensavo non si è andato sul palo. Vaffa. Fuori onda non vada mai in onda. A grande richiesta vi leggo ora uno dei miei cavatacchi. Scusa, farò finta di aver sentito, poi fate lo stesso. Stavo dicendo, sì, vi leggo ora uno dei miei pony di battaglia, a grandissima richiesta, veramente soltanto di presenti. Grandissima perché te l'ha chiesta domenica. Esattamente, non potete vederlo, però beh, possiamo descriverlo in un secondo momento, per chi non lo conoscesse ancora. Il titolo è Si dà il caso che puntini. Così è parzialmente e solo parzialmente autobiografico. Sono siero positivo, però sono ancora vivo. sono immuno efficiente al servizio della gente. Poi pompini con l'ingoio, perché sono un grande troio. Bevo il latte dei coglioni senza prendere precauzioni. Di prudenza me ne infischio, sono un soggetto più che a rischio. C'ho un bel virus cicciottello nelle vene nel pisello e con gioia lo diffondo più che posso per il mondo. Metto e prendo nel di dietro sperma e polvere di vetro. Piazzo aghi insanguinati nelle culle dei neonati e poi nelle carrozzine sborro in bocca le bambine. Sono sieropositivo e mi sento ancora più vivo. Sono un intraprendente per il bene della gente. Ieri ad una bella gnocca le ho sparato un bacio in bocca. Tanto ha detto un grande esperto che col bacio stai coperto, ma io sotto la linguetta nascondevo una lametta. Quando mi sono confessato, pure il prete ha bestemmiato. Sei pentito perlomeno? Sì, sono stato troppo a freno. In finale non m'ha assolto, mi sembrava un po' sconvolto. Quindi nell'acqua santiera ti ho lasciato mezza pera. Sono sieropositivo, sono promiscuo e sono giulivo. Sono immuno impertinente perché non mi frega niente. Chiaro che mi sono informato se un vaccino hanno trovato. Dice il professor Di Bella, c'ho un rimedio anche per quella. Questo mi ha tranquillizzato, c'ho il destino assicurato, che se trovano una cura poi non faccio più paura. Sono sieropositivo, finché campo sono vivo e perciò non mi lamento. Mo ne infetto un altri 100. Bravo. Ma perché parzialmente è tutta e poi lo spiego la tua narrazione. Guarda che sta a sentire di una cuffia, siete portato a fare il radio su e c'è auricolare e sta a sentire, quindi lo potete immaginare, insomma. Sta registrata, no? Nell'anno del giubileo, a grande richiesta, veramente proprio l'entrata è favolosa. L'altra volta c'ero. Il cane c'ero, mi ricordo che c'ero. C'ero. Se non c'è lui, c'è nessun altro. È entrato alla porta e si è uscito. No, perché io sono entrato in forza di campo, stesso. Hai fatto il prezioso per tanti anni, poi alla fine ti sei regalato le brache mortali. Nemi in cimitero, rovina nel lago. Nemi poeta in patriam. Mi giocate i morti dentro. Arriva ogni sgoccio, ogni sgocciolamento di morte. E tu con tutta questa sensazione. Bravo, così ti fai, come ti hai senza di passare via. Morti di due fasi. Quella più di me era di Dito, la chiacchia. Chi non ti conosce? Sì. Vabbè, tutti ti conosce. Chi lo conosce l'ha capita, chi lo conosce... Tanto ti sta a sentire. Claudio, il quale non credo neanche perché mi ha detto una frequenza sbagliata della radio. Non posso dire, quindi, non trova la mia andata a fare il invece, comunque... Sì, ma che sono che hanno gli cinesi, che proprio... Se lo registro poi io mando. Sì, ma di casa. I buoni carica. Non sto registrando, io faccio sentire un po' di meno. A parte mando il primo, no? Comunque secondo me io non so che fanno l'altra volta non penso che però fosse un esponente nel gruppo di poeta che hanno avuto la maglia nera, quindi gli come poeta del giustista magari come le fanno scontano benissimo. Sono di nuovo Tecno Ciccio, continuiamo con l'antipoesia. E in questo caso semplicemente si tratta di poesie di cui non frega un cazzo a nessuno, immagino, perché io ho una bella fissa di dedicarle poesie ai miei amichetti, alle persone che conosco, eccetera eccetera, così poesie strettamente autoreferenziali. Questo è dedicato a un mio amichetto che si chiama Colui che ha i denti al collo. Colui che ha i denti al collo è il figlio segreto dell'uomo in ammollo. Colui che ha i denti al collo ha sempre con sé una marca da bollo. Colui che ha i denti al collo non mangia mai la pelle del pollo. Colui che ha i denti al collo al ristorante ordina midollo. Colui che ha i denti al collo ha un topolino di nome Apollo. Colui che ha i denti al collo ha la lingua gialla e il naso frollo. Colui che ha i denti al collo ieri in borsa ha subito un gran crollo. colui che ha i denti al collo c'ha il pisello mollo mollo. Ne leggo un'altra, sempre dedicata a un amichetto, si chiama amichetto, si chiama Spectre, tra l'altro anche un membro dei Sentinels, di cui alcuni... Salutiamo i Sentinels, soprattutto Claudio che ci sta sentendo. Claudio è l'uomo senza il quale... È malato, povero. Claudio è l'uomo senza il quale niente esisterebbe, cioè non esisterebbero i quadri di Ricostisti, i Sentinels, tutto il barbecue. Praticamente è Dio. E lui fa la notte soprattutto, cioè per il fatto siccome fa la guardia giurata, fa la notte, quindi ormai per me è una divinità. Comunque questa poesia è dedicata a un altro tipo che milita in questi gruppi di derelitti, si chiama Spectre. La poesia si chiama Spectre è un gatto gay. Spectre è un gatto gay, è una cagna troppo sexy, e in un bunker post celere manda la sua mente in pezzi, come un vulcaniano stitico ex marito di Godzilla. Prova a usare macchine asettiche per clonare Claudio Villa, ma lo vedo più a suo agio a dipingere col ragù e in un'estasi lisergica a imitar Mr. Magoo. Il suo volto un po' alla Woodstock, pare un osi in questo strazio. Il suo encefalogramma va spedito nello spazio, ma i suoi acerrimi nemici al momento del decollo lo farebbero schiantare da colui che ha i denti al collo, perché invidia c'è a sto mondo per chi ultra trentennale sceglie come proprio regno una scuola elementare. Finale ermetico, non lo capisce nessuno, ma va bene uguale. Si capisce. Ok, l'applauso non scatta, ma è evidente. Ah, che fate io? Vai, la maghetta di gatto. L'altra maghetta, Che registrato. This raw power. Faccio una poesia, porcamadonna.it si chiama tutta la parola, io ce l'ho tutto, guarda. Non è da ferirsi morti. Quello che ha fatto il spranto dalla strada. È da ferirsi tutti morti. Vabbè, uno sta nelle mani. È rimasto umano, ma io umano che ho la stavo portando a casa quella taccia. La stavo portando a casa perché c'è questa che c'ha la fichetta pelosa. Ma vada tu, ma stai in diretta. Ma quel bagno basso ti piace? Mi fa morire, guarda. È bellissimo, perché lei non è che c'ha la tigua nella bocca, sa, lecca il mento. Leggo questa poesia dedicata a una persona che ho lasciato. Ma tu chi sei? Sono Andrea. Quello di prima. Ti ho lasciato, brutta stronza, ti ho lasciato all'isola di Ponza, ti ho lasciato sul dorso di un mulo, ti ho lasciato, piedrande il culo. È finito. La pillola anticoncettuale. Fate un po' di abbi pazienza prima di lasciarvi andare a giudizi frettolosi. Questi invece sono gli MC5. Questo è il loro brano più noto. Forse i meno zodici di voi sapranno che questa si chiama Kick Out the Jams. Chi non lo sa? Che belle cose. Ma ecco, allora non venite. I parecchi stanno lì a tirare con i coglioni. L'altra volta che sono andato c'era una canzone, tipo la cantante con cappellista. Purtroppo c'era anche ieri. Era anche non era la stessa. L'altra volta era una che faceva tutto Ray of Light. Non si sa se era peggio la... Il primo l'ultimo pezzo. Era peggio la tastierizza o la pizza, guarda, due cose ignobili. Ma infatti potevate restare là. Sì, guarda. Potevamo restare tranquillamente. Messaggero è un personaggio iniziale. Sì, il messaggero proprio, lo sa livello di stop proprio. Prima pagina, voglio dire. Nessuno vuole 230.000 pezzi. Nessuno. Se attenti 8.000 pezzi. Esatto, infatti che fai. Dove li metti? Non c'è posto per mettere tutti i miei posti. Quello è il problema. Per il posto per mettere 230.000 pezzi. Fare dei gridolini. Non è che la basetta. Ah, ma mo me la che non lo sa che la basetta. Che ci fai? Ti posso prestare la mia, che basetta? Perché? Che la farete? Un seggiolino. Ma non credo che fanno tempo ormai. Allora, brutta io. Voi che faccio io, poi che fai dopo. Io la basetta. Andrea ha scoperto lo scudo, ma sei innamorato. Era uno perché c'è il deserto che si basa con il terreno. Sì, è vero. Ormai, con cassetta. Ormai con la cassetta, eh? Io l'ho perso. Bella anche questa di cosa. Quale? Vai. Non connessa, ramo secco, c'ha la faccia da commessa, bella presenza falsa quanto basta, senza spirito materno scrivo sempre sul quaderno, soprattutto quando sono rilassata e non connessa. Dammi la password, altrimenti non entri. Parola d'ordine, annulla che è meglio, impossibile localizzare il servo. Il servo non ha una voce, controlla il servo all'indirizzo. Urlo. Ah! Ok, annulla che è meglio, impossibile localizzare il servo. Controlla il servo all'indirizzo. Urlo. Ah! Ok, provaci ancora, Sam. Ok, niente, ok, annulla. Che donna. Si torna con la musica dopo la poesia. Questi sono gli Hard-Ons dall'Australia. Non vuoi andare in una questa? Non sarebbe dovuto andare in onda questa, tra l'altro in quella cassetta c'è un falso, nel senso che io sperando che c'è trappa avevo già scritto il titolo di quello maggiore in Italia, invece in realtà non ci sono. Una perdita. Eccoci qui, in diretta approfitto, ho l'ingrato compito di salutare per voi l'amico Andrea Evangelisti che se n'è andato. Sul più bello, ma aggiungo che dopo questo set di poesie, ahimè, me ne dovrò andare in gli impegni familiari disgustosi, se non disgustistici, mi portano lontano da voi. E così lascerò liberi i tre colleghi di fare quello che cazzo gli pare, queste sono parole testuali loro. Allora, leggerò tre poesie con loro permesso. La prima l'ho scritta qualche sera fa in motorino, sfidando le leggi della gravità e del codice della strada, vedendo delle immagini tristissime in una sera d'estate in quest'anno di grazia 2000. Si intitola 3-3 giubileo, ovvero luci e colori dell'anno 2000. È molto seria, non fa ridere, sopportatela. Famigliole in ciabattine e completino pseudo sportivo scendono sotto casa la sera per un gelato, soddisfatti per aver visto la partita. Vagonate di stolti dal berrettino giallo e sorriso ebete, si cuociono gli ultimi neuroni 6 ore in fila sotto al sole verso la cappella. Orde di nuovissimi vigili urbani soddisfano la voglia di compagnia dei vecchi vigili, mentre la città eterna delira in eterna agonia. I nostri re danzano più grassi e soddisfatti che mai sulla tomba delle nostre speranze. Già ti pare che sono parole testuali loro. Leggerò tre poesie con loro permesso. La prima l'ho scritta qualche sera fa in motorino, sfidando le leggi della gravità e del codice della strada, vedendo delle immagini tristissime in una sera d'estate in quest'anno di grazia 2000. Si intitola 3-3 giubileo, ovvero luci e colori dell'anno 2000. È molto seria, non fa ridere, sopportatela. Famigliole in ciabattine e completino pseudo sportivo scendono sotto casa la sera per un gelato, soddisfatti per aver visto la partita. Vagonate di stolti dal berrettino giallo e sorriso ebete, si cuociono gli ultimi neuroni 6 ore in fila sotto al sole verso la cappella. Orde di nuovissimi vigili urbani soddisfano la voglia di compagnia dei vecchi vigili, mentre la città eterna delira in eterna agonia. I nostri re danzano più grassi e soddisfatti che mai sulla tomba delle nostre speranze, già inneggiando a un altro anno santo. E intanto Dio si nutre soddisfatto delle nostre bestemmie come un cannibale che divora il cervello dei suoi nemici. Era serissima, tristissima e bellissima. Distrutto tutto, vabbè. Vabbè, proseguirò con una poesia falso beat, si intitola Donna. Donna non nel senso di essere umano femminile, ma proprio come nome proprio di persona. Cioè come il gruppo delle donne. Hai fatto bene. No, no, donna è un nome americano di donna. Non capito, dai, ma stai citando le donne, dai, ammettilo. Subito. Non le sto citando, curaccio, non mi hanno fatto niente di male, anzi, sono simpaticissimo. Vabbè, questa è una cosa mia. Donna. È venuto a trovarmi John. John è mio amico. Si è seduto, abbiamo bevuto birra e chiacchierato. Non ho avuto nessun desiderio di fotterlo. È venuta a trovarmi Barbara Sue. Barbara Sue è un'amica. Si è seduta, abbiamo bevuto birra e chiacchierato. Avevo una gran voglia di fotterla, ma non gliel'ho nemmeno detto. È venuta a trovarmi Donna. Donna è la mia ragazza. Si è seduta, io ho bevuto birra, io ho parlato. Avevo una gran voglia di fotterla, gliel'ho detto, ma lei non ha voluto. Spero che torni ancora a trovarmi John. Bene, concludo, grazie. Se ti è piaciuta di più. Concludo con l'ultima, dopodiché me ne vado. Da John. Per la vostra foto da John, che mi aspetta, braccia aperte e non dico il resto. È una poesia ormai vecchissima, dalla mia età veneranda. Una delle prime che ho scritto, ma tutto sommato a giudizio del folto pubblico una delle migliori. Cara mi manchi, cara mi manchi, quando mi lanci addosso il piatto ancor colmo di minestra. Cara mi manchi, quando il coltello appuntito sibila minaccioso accanto al mio orecchio sinistro. Cara mi manchi, quando impugni feroce la tua 38, per quanto tu prenda la mira. Cara, per fortuna mi manchi. Grazie a tutti, arrivederci, ciao. E grazie al nostro anfitrione dietro il vetro. Sulle poesie, tutte e tre a dire la verità, le ultime citate. Yeah! E questa è la Rollins Band. Vabbè ragazzi, buon proseguimento. Tenere alto l'onore, la gloria, la fama. Andoci giorni, sono aiuto. Mi avvio il libro. Cioè, menate. Grazie di tutto. Sì, ma non può. Stando del fatto che il bigotto e il bacchettone del gruppo se ne sono andati entrambi, leggerò ora l'ultima poesia, no, non l'ultima che ho scritto, ma l'ultima che ho stampato, quando ancora avevo una stampante. Quando ne avrò un'altra forse potrò leggere anche altro, insomma non leggo più in maniera di grafia che diventerà completamente incomprensibile anche a me stesso. Questa si intitola, in omaggio insomma all'anno del giubileo, Trouble in Paradise. Dio non scopa da 3 mesi, la Madonna l'ha accannato, c'hai i coglioni un po' ipertesi, un po' capì come è ingrifato. Va su e giù come un ciclone per i campi di Gran Turco, spazza via ogni piantagione bestemmiando come un turco. Se ne fotte della gente che poi morirà di fame, non gli frega più di niente, solo del suo destino infame. Quella troia di una vacca, grida e urla nel vento, quella lurida baldracca, la rinchiuderò in convento. No, non è la prima volta che Maria gli fa cornuta a quella testa non più folta e non per grazia ricevuta. Una volta con San Pietro, un'altra volta con 3 santi, 2 davanti e 1 dietro, o 2 dietro e 1 davanti. L'anno prima un gran sollazzo, si scopava Padre Pio, con rosario intorno al cazzo, ogni grano un porto Dio. E poi 100 cherubini, putti, angeli e beati, più 90 serafini con gli scroti prosciugati. Forse pensavate ad essi come armi asessuate, ma anche in paradiso i cessi hanno porte separate. È accaduto già in passato, la signora non è un giglio, ma stavolta è esagerato, è scappata con suo figlio. Le vorrebbe dar la caccia, ma lei ha sparso, e non a caso, solamente qualche traccia. Un corredo sadomaso sparpagliato tutto intorno, e una signora a 2 piazze, tira una foto porno e chiereca strane chiazze. Al creatore frega assai se l'incesto è o no un peccato, siamo tutti figli suoi, ma qualcuno l'ha inculato. Pensa solo a che figura gli fa fare la sua donna, per tacere della creatura, e che è Cristo, e che è Madonna. E alla minchia che è digiuna. Non più sacra la famiglia, oggi se ne avesse una scoprirebbe anche sua figlia. Ma non può, né mai potrà. A se stesso ha fatto un voto, perché tanto tempo fa giurò d'essere devoto. Ha una sola soluzione per dar sfogo alla sua rabbia, e si spara un bel pippone alla faccia della Bibbia. Oggi nevica sul mondo, sulla pace e sulla guerra. Con un gemito profondo Dio è venuto sulla terra. Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. 19:58 a Radio Onda Rossa de Los Ángeles. Juana's Addiction. Sta poesia un po' in tema col giubileo. Comunque una comunicazione per gli ascoltatori di Radio Onda Rossa, Cool Runnings non andrà in onda. È sempre l'antipoesia, questa volta ci dedichiamo all'altra mia grossa passione, cioè la culinaria, perché difatti il nome tecnico Ciccio vi lascerà immaginare che naturalmente io supero di molto i 130 kg. È la vostra fantasia. Ok, la poesia quindi culinaria, decisamente antipoetica, si chiama Budino di cervella di maiale. Quelle tic e tac, ai, quelle tic e tac fanno un rumore pericolosissimo. Aspetta, ok. Allora, budino di cervella di maiale. Grammi 400 di cervella di maiale, lavate in acqua fredda e fatela spellare. Il mezzetto di burro andrà poi rosolata, finché la superficie sarà tutta dorata. Passatela al setaccio, 2 tuorli hai da frullare. Non c'è moscata, un pugno, poi devi grattugiare. Unitevi del sale, un po' di parmigiano, di panna, un bel bicchiere, versate piano piano. La forma del budino avete ora imburrato, in fretta cospargetela di pane grattugiato. Versatevi il composto, unite le cervella, farete impallidire pure la sorellella. A bagnomaria 1 ora, cuocete adesso il tutto, sfornate e poi servite con piselli al prosciutto. E continuo con una poesia bonsai, che tra l'altro è proprio il mio cavallo di battaglia, la poesia che generalmente mi viene richiesta come prima cosa, e si chiama La Sesta Generazione. E qui ridono, vabbè. Vabbè, La Sesta Generazione. Sti ragazzi d'oggi, gli dai in dito e se lo ficca dal culo! Questa si intitola senza titolo. Sono sola nello spazio, sola, tra le stelle e la supernova. Sola, e già sento la mancanza di vita. Sono sola sulla navicella spaziale, quando sento il grugnito di un maiale. Mi volto, lo vedo, non è un maiale, è un cinghiale. È ferito a bordo di subbiatto dalla terra e mi ha rovinato la poesia da vivo sola. Grazie. E frequentano i surfisti, anche quelli un po' nazisti. I poeti disgustisti si aprono come delle cisti sulle gambe dei podisti, sulle mani dei tennisti, sulle chiappe dei ciclisti, sulle lingue dei linguisti. E i poeti disgustisti sono pessimi affaristi, non saranno mai stilisti, ma nemmeno camorristi, né avvocati civilisti, né impiegati un po' arrivisti, né alpinisti, né pur cestisti, né guardoni, né onanisti. I poeti disgustisti sembrano dei camionisti, quei teppisti casinisti che sorpassano gli autisti e poi spiano i nudisti, fanno un salto dai gommisti e circondati da alcolisti si confessano ai baristi, mentre su dei palchi tristi luce dagli elettrocisti e giungono gli spogliarellisti e fantasisti, trapezisti, ecco i contorsionisti, bravi sono gli equilibristi, assistiti da estetisti ed ambigui costumisti che, me l'han detto i macchinisti, su dei set neorealisti si sono finti tangentisti, ma che spiriti edonisti e anche un po' individualisti, che cultura da turisti, con quegli animi razzisti sono biechi e consumisti, schiavi dei capitalisti e di quei squallidi azionisti, folle di ex socialisti e di finti comunisti, ma nel nome dei maoisti, dei castristi e neomarxisti, dei cubisti, surrealisti, futuristi e dadaisti, noi invochiamo gli alchimisti, distruggete i satanisti, disperdete i spiritisti, dopo i tempi oscurantisti, allarmisti e nichilisti, pessimisti, revisionisti, masochisti e interventisti, ecco arrivano gli animisti, i buddisti, gli induisti, quei bizzarri animalisti, questi spiriti ottimisti, umanisti, neoilluministi. Ma i poeti disgustisti troppo spesso son dentisti, sempre meglio che oculisti, o peggio ancora frati trappisti, o financo farmacisti che si infingono specialisti e sognano d'essere internisti. E non faranno mai i turnisti, siano essi tastieristi, bassisti o batteristi, ilari saxofonisti o flautisti o chitarristi. Ma i poeti disgustisti sono ottimi coristi e da molti sono mal visti quando intonano così. Poeta maledetto, maledetto poeta maledetto, maledetto poeta maledetto, maledetto poeta maledetto, maledetto poeta maledetto, maledetto poeta maledetto, maledetto poeta maledetto, maledetto poeta. Stop. Beh, è evidente un gran commento. Cioè, i Coma Gain si sprecavano. Questo era il manifesto dei poeti disgustisti. Mentre questi sono i Pennywise. Tu non sei un uomo, non sei un animale, ma c'è qualcosa in te particolare che mi fa bruciare i microprocessori. Sì, lo so, quando mi faccio in faccia, vorrei scandalizzare. Tristemente va a chiudere fra poco. Intanto si continua con Psychotic and Lowy Lowy. I do the best that I can. I ain't no miracle worker. Oh Lord, I ain't no miracle man. Avanguardia. In corso qui un happening di poesia. Di poesia disgustista. Disgustista. Tra poco con un'altra poesia, intanto Mr. Pharmacist per The Other Elf. A Tecnociccio, allora leggo due cose, una è veramente bonsai, si chiama Spiga, Spiga? No, no, spiga, inteso come sfortuna, che brutta sorte. Spiga. Se mi casca il cazzo, mi rimbalzo in culo. Meglio te che a noi, te. Grazie, vado con la seconda. Questa è una sorta di mantra, cioè, non provate a comprenderne il senso. Come sempre, cioè, nonostante che sia un altro del gruppo dei poeti che risponde al nome di Hermes, forse il più ermetico a tratti, sono io. Comunque, vabbè, non provate a comprendere. È un mantra, dovrebbe portarci verso una dimensione spirituale ben precisa. L'ha dedicata a Glenda, l'amante del glande, e la poesia si chiama La testa del gatto. Mo, se state buoni, zio vi fa vedere la testa del gatto. Zio, facci vedere la testa del gatto. Mo, se state buoni, zio, vi fa vedere la testa del gatto. Zio, facci vedere la testa del gatto. Mo, se state buoni, zio, vi fa vedere la testa del gatto. Passa nel frotte. Altro che non è mai. Ma vedo delle facce proprio un po' interrogative qua davanti a me. O qualcuno mi sa che mette mano in faccia a Tecnociccio oggi, eh? Intanto questi sono i Boo, i Millen Collin, Penguins and Polar Bears. Questa è la mia ultima poesia. E dicevo ringraziando il Dio, perché ci sta bene, dicevo. Buonasera, permettete che mi presenti, mi chiamo Santuzza Terni, nata a Cucuzzolo Secco, una frazione della provincia di Afragola. Scusate l'emozione e la fretta, ma ho un matrimonio che m'aspetta. Io sarò una sposa perfetta, vi sposerò in una bella chiesetta, inviterò amici e parenti, mostrerò loro la collanina d'oro, il vestito bianco e mio marito, che si chiama Franco. Lui mi ha preso a bastonate, mi ha frustato con la fibbia della cinta e il giorno stesso mi ha messo incinta. Io però sono contenta perché siccome che non sono tanto bella, sempre meglio che zitella, ho raggiunto anch'io il mio sogno ed un uomo poi lo voglio. Firmerò cambiale su cambiale, ma sarà un giorno eccezionale. Me l'ha detto la maga alla TV e gli ho pagato un filtro d'amore voodoo. Gli ho pagato pure il talismano che lo tengo sempre in mano. Sono passati 10 anni, permettete che mi lagni. Ricordate la sposa modello? Beh, al mattino bevo vino e bello. Soffro d'ansia e depressione, psicofarmaco e mi calmo. Il cervello m'arrovello, la famiglia è il mio fardello. Ora abbiamo 3 mocciosi, brutti, asini e catarrosi. Mio marito ha la cirrosi, rompe tutti alla nevrosi. Non abbiamo riscaldamento e dormiamo sul pavimento, ma non mi lamento, ringraziando il Dio. Perché so che diventerò ricca, visto che stasera ho schiacciato la cacca. E delle...